Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? See the new? Più spazio a altri suoni, visto che abbiamo i magazine che andranno fino circa alle ore 9 per la stagione estiva 2022-2023, già nella seconda metà del mese di luglio. Lunedì parte questa penultima settimana completa del Breakfast Club. Quanti spunti di riflessione che hanno portato i magazine, nonostante alcuni, non dico siano in vacanza, perché proprio tutti in vacanza non è che siano i magazine, nonostante la stagione delle vacanze imminente sia presente anche nelle pubblicazioni quotidiane. E per quanto riguarda gli alleati, gli allegati, gli allegati, solamente Tutto Libri per ora della Stampa si dedica alla narrazione di racconti per scrittrici e scrittori direttamente sulla pagina dell'allegato al quotidiano La Stampa. Gli altri magazine per ora restano invariati. L'allegato alias della domenica del Manifesto probabilmente in agosto si prenderà un po' di vacanza. Per quanto riguarda gli altri magazine, abbiamo la presenza estesa per tutta la durata stagionale. Perché sono così preciso per quanto riguarda i magazine? Perché salutiamo intanto i turisti in decollo da Bologna. Sapete che siamo su una pista di decollo atterraggio, in questo caso mi pare sia stato un decollo, quindi ogni tanto entra nel microfono. Preferisco la base naturale delle cicale, ma certamente non ho la possibilità e non voglio bloccare il traffico aereo. Per quanto riguarda invece i magazine, quello che dà continuità alle nostre rubriche settimanali, che dà anche ispirazione, a volte addirittura anticipiamo i contenuti dei magazine, a volte sono ispirazione per le rubriche che portiamo tra letteratura ed arte e anche spunti di riflessione. L'articolo veramente esteso, anche con diverse frange di argomentazione di partenza per questa rassegna, viene dalla lettura del Corriere della Sera. Lo troviamo in edicola la domenica legato al Corsera. È veramente un inserto da tenere sempre d'occhio, poi nelle vacanze c'è più tempo per leggere, quindi insomma secondo me è un'ottima occasione. Oltretutto aggiungo che come i quotidiani si stanno adattando alla rete, portando notizie col titolo così con un importante, un aspetto che dà un'incisività, poi per quanto riguarda la stesura, adesso chi è che ha voglia di mettersi lì a leggere il giornale? E lo dico veramente e mi piange il cuore a dire tutto ciò, però purtroppo tant'è. Allora invece quelli che sono gli inserti culturali danno un attimo di approfondimento in più. Contro la tirannia dell'ovvio è il titolo principale per l'inserto del Corriere della Sera. Riporta personaggi storici, filosofi, scienziati che hanno, non dico disobbedito, ma che hanno seguito in maniera critica per quanto riguardava il pensiero unico dell'epoca per portare invece le proprie teorie, e questo viene esteso filosoficamente con altre argomentazioni, visto che stiamo vivendo un periodo decisamente di pensiero unico. Ci nutriamo di certezze, ci difendiamo da ciò che le insidia, che sia ipocrisia o pigrizia, facciamo fatica a liberarci di questa abitudine. Il difficile non è insegnare il nuovo, ma condurre chi ascolta a disimparare il vecchio. Chiamiamolo metodo Keplero, perché lo scienziato rinascimentale invitò, evocando per attirare l'attenzione anche demoni, streghe, a immaginare di guardare la Terra e l'universo dalla Luna, con lo stesso coraggio intellettuale di Galileo, un po' come fecero in tutt'altro contesto e facendo un salto nel tempo i filosofi della scuola di Francoforte, che nacque nel 1923, di cui vi ho parlato la scorsa puntata dei Magazine. Tutto ciò contro la tirannia dell'ovvio. Sentite, è già partita questa versione live: Dave Brubeck, Paul Desmond, The Take Five, con l'aggiunta di un baritono tutti i tempi, cioè Jerry Mulligan. E mi raccomando, criticare tutto, criticare tutti. A un secolo dalla fondazione, 1923-2023, l'istituto di Adorno, Benjamin & Company, stiamo parlando della scuola di Francoforte. Interrompere l'assolo del più grande contraltista, Paul Desmond, in questo live. We are all together again for the first time. Dave Brubeck, Jerry Mulligan, Paul Desmond. In questa versione, una delle più belle per quanto riguarda l'esecuzione live del grande standard Take Five. A 50 miglia tedesche, nella profondità dell'etere, si trova l'isola di Levania. Il passaggio di qua a là ti dà laggiù verso la terra praticabile assai di rado, e quando lo è agevole soltanto per la nostra gente, cioè i demoni, mentre per gli uomini che devono essere trasportati è davvero difficilissimo e comporta un grave pericolo di vita. Non ammettiamo in questa comitiva nessuno che sia sedentario o corpulento o delicato, ma scegliamo piuttosto coloro che passano molto tempo a cavallo, che di frequente viaggiano per nave fino alle Indie e perciò sono abituati a tupparsi, a nutrirsi solamente con pan biscotto, aglio, pesce secco, che a disgustosi a molte volte noi riteniamo, che invece per lo più apprezziamo. In particolare quelle secchiette rinsecchite per i quali è normale sin dalla fanciullezza cavalcare caproni notturni o forconi o mantelli consunti e spostarsi attraverso territori immensi. Nessun tedesco ci sembra adatto, mentre non disdegniamo le asciutte corporature degli spagnoli. Così parla in islandese il demone che sta per accompagnare Durakoto, alter ego dell'autore sulla luna, Levania, intesa appunto come luna. Sapete chi è l'autore? È Keplero. che a volte con questo incipit ci può apparire così scritto in maniera sgrammaticato, non proprio corretto, ma sono le scritture di questo scienziato, il tedesco Giovanni Kepler, Johannes Kepler, poi è stato riadattato, astronomo, matematico, filosofo e teologo luterano. Nella sua carriera fu anche professore di materie scientifiche e anche umanistiche. E insomma, lui da Levagna, lui invitava a guardare in maniera lucida, togliendosi al di fuori da questo pensiero unico, e l'ha fatto in questo modo assolutamente strano ma allo stesso tempo affascinante, per avere un atteggiamento critico, per rendere il pensiero diversificato, per poi averlo in maniera e in materia di confronto. 1923 poi la scuola degli intellettuali e dei filosofi di Francoforte ne fece un motivo invece di continuità a queste parole, non solo che Plero, altri grandi scienziati e studiosi sin dal Rinascimento portarono questo tentativo che poi è arrivato fino ai giorni nostri, di avere una visione non distaccata nel senso di disinteresse, ma di osservare e riuscire a prendere un'opinione, un pensiero che non sia influenzato, ma che sia unicamente portato dal senso critico di ognuno di noi. Fra gli altri studiosi vorrei aggiungere anche Galileo Galilei. Strano è poi che il Corriere della Sera, che già abbiamo visto in diverse volte portare, ma questi sono dei magazine, degli inserti, magari c'è più libertà nel riuscire a esprimere i propri pensieri, non so, oppure uscire un attimo anche dalla linea editoriale. Il caldo fa schifo, il caldo fa male, il caldo lo chiamiamo Cerbero. Questo è uno dei pensieri che ormai è diventato a forza di dai e dai un motivo assolutamente di avversione nei confronti dell'estate. Questo è semplicemente un esempio che posso portare quando ricordo che invece è un po' il periodo della luce, delle giornate estese, del momento di vacanza, del vestirsi leggeri, del prendersi qualche momento in più per noi, qualche momento in più per noi. Mica tanto bello questo. È solo un esempio, poi andiamo anche oltre quella che è stato l'affrontare dell'emergenza pandemica, quante contraddizioni del quale adesso improvvisamente non si parla più, o anche l'aspetto del conflitto Russia-Ucraina. C'è un invasore, c'è un invaso, si parte sempre da queste parole, da una determinata data in avanti, e il pensiero deve essere assolutamente quello, e unicamente bisogna, nonostante la situazione che stiamo vivendo, spendere denaro per le armi. Ma potrei aggiungere diverse altre situazioni e sensazioni, dalle più importanti alle meno importanti. Comunque ricordo il desiderio che ho avuto alla vigilia della maturità, che io non ho mai fatto, probabilmente si sente, si vede, si percepisce, buona grazia che sono riuscito a fare le medie. Ma per quanto riguarda il messaggio che avrei voluto lanciare, un po' sono riuscito, perché è molto complicato divulgare tutto ciò, criticare tutto, criticare tutti, per quanto riguarda giovani che ormai non hanno il senso di antagonismo, ma giusto appunto che abbiano almeno il senso del giudizio. non volete o non potete essere, tra virgolette, come dicono adesso, perché fate il gioco, no? Stay angry, stay full, mi pare che dicesse un moderno studioso, un grandissimo imprenditore. Ecco, visto che la linea per quanto riguarda l'aspetto critico è strano che venga dettato da determinate figure, piuttosto sarebbe bello riuscire con un giudizio nella critica non essere ribelli, perché la situazione di ribellione ormai è stata completamente sopita. Si hanno poi manifestazioni assurde, quelle proprio che arrivano ad aspetti che diventano dall'altra parte per quanto riguarda la realtà concreta e diventano controproducenti. Allora, in virtù di questo, piuttosto sviluppiamo quello che è un ragionare in maniera autonoma, e mi rifaccio all'articolo che ho appena letto con la colonna di conclusione di pagina 3, criticare tutto e criticare tutti. È molto corposo, per cui ho dedicato a questo lavoro sulla lettura del Corriere della Sera tanto spazio, e il motivo legato anche all'esperienza personale per quanto riguarda poi la riflessione di questa tirannia dell'ovvio, che è il paragrafo iniziale d'apertura di denuncia, passando per figure come Keplero e Galileo Galilei. L'esperienza personale da spettatore, pensate ogni tanto, ma non ho dubbi, cogito ergo sum, il pensiero c'è sempre, comunque, come, quindi casualmente presente all'uscita dell'ultimo giorno di scuola per la scuola primaria, si chiama adesso, correggetemi se mi sbaglio, di scuole elementari, un'uscita in stile rassegna, e ci può anche star, festosa, dove insegnanti che portano l'ultima stagione, quindi con il riposo e la meritata pensione, vengono salutate con cartelloni e scroscianti applausi da parte degli allievi. Io l'ho trovato un cortocircuito allucinante. Io non avrei mai applaudito alla mia insegnante, ma neanche se me l'avessero imposto, non ho, l'avrei rispettata chiaramente, sempre e comunque tuttora la rispetto, pur restando molto, molto appunto critico, ma mai avrei applaudito. E non sviluppando questo senso di antagonismo, secondo me quantomai naturale, poi leggiamo, no? Si presenta in classe con la pistola a piombini e spara all'insegnante, si presenta a scuola e prende a ceffoni il compagno di banco, dopodiché butta per le scale l'insegnante. E restiamo tutto scandalizzato, il pubblico davanti a queste manifestazioni estreme. Ma se non c'è un percorso che dà la situazione di critica come vi ho descritto in precedenza e un senso di normale antagonismo, alla fine i soggetti più deboli esplodono in questo modo. E non si risolve con allora due scopaccioni e poi i genitori ne diano a casa altrettanti. Non è questa la realtà per evitare queste criticabili, queste condannabili, ci mancherebbe manifestazioni. Bisognerebbe avere, come ho sempre citato, un senso di giudizio autonomo, indipendente, di ruolo, di approccio, di antagonismo, di sano confronto, ovviamente legato, e ci mancherebbe, al rispetto e alla consapevolezza, ma che non deve avere dall'altra parte la manifestazione degli applausi per l'insegnante che va in pensione. No, l'insegnante è quello che ti ha fatto piangere perché ti ha dato troppi compiti, è quello che ti ha fatto sentire vittima di ingiustizie, è quello che ha sottovalutato il tuo lavoro, è quello che può capitare, è quello che magari ha anche sbagliato, ci mancherebbe. Quindi ok, massimo rispetto, ma non è che dai, andiamo tutti a mangiare la pizza, ma dai che bello. No, non funziona esattamente così. Il senso critico che ha portato anche nell'articolo dalle parole di Keplero e di altri grandi artisti è di avere un pensiero che non sia un pensiero sempre e comunque allineato, ma che abbia una visione di indipendenza e autonomia nell'esprimere l'analisi delle proprie opinioni e notare quello che non va e tenerlo ben presente e non mandarlo giù perché siamo, ma sì dai, facciamo un bel applauso. Ecco, dall'articolo di apertura della lettura del Corsera, la mia enorme omelia di oggi 17 luglio 2023 che ci porta fino alla pubblicità. Torniamo tra poco con la seconda parte dei magazine, altrettanto corposa, perché cambiamo magazine, andiamo sulla Domenica del Sole 24 Ore. Perché tutto ciò? E alla fine cosa vogliamo imporre, con che sistemi e con quale mezzi per tutto ciò? Beh, lo troveremo con il lato oscuro dell'intelligenza artificiale. A tra poco. Thank you. dal long format del Corriere della Sera, che portava la tirannia dell'ovvio, del pensiero unico, fino a quello che riguarda il paragrafo scienza e filosofia della domenica del Sole 24 Ore, prestigioso inserto, tutto libri della stampa riporta unicamente racconti, giustamente peraltro, anzi l'ha annunciato, che avrebbe messo lo spazio a disposizione per scrittrici e scrittori. Quindi ho preferito concentrarmi, mi è venuto spontaneo concentrarmi su due realtà con spunto di riflessione. Questo invece sta atterrando, Se ne parla tantissimo e ho pensato che tutti gli aspetti che ho elencato in precedenza, beh, hanno bisogno di una sorta di polizia, no? Che sta al di sopra, una sorta di... e sta già arrivando, Porta un nome che io non ho ancora capito esattamente, che è ChatGPT, Scienza e Filosofia, pagina 6 della domenica del Sole 24 Ore. L'intelligenza artificiale è uno specchio vertiginoso dell'esperienza umana. In mani sbagliate, è chiaro quanto sia pericolosa, aggiungo io, ma quali sono le mani giuste? Ma anche usata da benintenzionati rischia di essere uno strumento controverso, che non è esattamente quello che ho detto io, ma ci va molto vicino, È un articolo di Nicola La Gioia, come ho detto, dalla domenica, che inizia così: molti sono rimasti stupefatti la prima volta che hanno usato ChatGPT. Confesso, in effetti dovrei prima, ma siccome immagino di cosa stiamo parlando, insomma, lui stesso dice: confesso che sono tra questi. Lo stupore e un certo timore derivano non tanto dal riscontrare l'innegabile potenza raggiunta da questi software, ma dalla consapevolezza che ciò davanti a cui ci troviamo è solo l'inizio del suo percorso. La distanza tra le attuali forme di intelligenza artificiale e ciò che diventeranno nei prossimi anni è maggiore di quella che supera i vecchi computer a transistor dai laptop, allo stesso modo con cui scriviamo. Non pochi analisti ritengono che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sarà troppo rapido, perché sul piano economico la sua distrazione creatrice, la differenza tra i posti di lavoro generati dal nuovo tipo di tecnologia e i mestieri resi di colpo obsoleti, presenti un saldo positivo. Credo che sia un pericolo serio, ma non il peggiore che corriamo. Sì, il problema è che allo stesso modo l'ha scritto lo stesso autore del lavoro, che siamo solamente all'inizio. Già iniziamo in questo modo riguardante un aspetto fondamentale che è il lavoro, ma siamo solo all'inizio, quindi quello che sarà da lì in avanti, pensate un po' a cosa si potrebbe arrivare. E poi in tutti i modi si può tagliare la testa al toro pensando alla fine l'intelligenza artificiale ChatGPT, voglio dire, ci saranno dei dati da caricare, ci sarà da scrivere, e come ben sapete la storia, chi la scrive? Beh, la scrivono sempre i cosiddetti vincitori. cosa resterà? Sono stato per la terza o la quarta volta, perché per me è il più bello il museo archeologico per quell'epoca, che è dalla preistoria fino all'impero romano che ci sia in Europa, che è il Museo Archeologico di Adria, Museo Nazionale Archeologico di Adria. E ovviamente frequentando le zone in maniera continuativa, non dico ogni anno, ma ogni due o tre anni almeno una visita. E siccome è un museo veramente che per me è obbligatorio andare ad ammirare per tutte e per tutti, mi chiedevo, ma dal 2000 in avanti abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo tutto e di più, abbiamo la musica che si scarica, non c'è più un motivo di ricerca, non c'è più un motivo di... ma questo brano che fa, poi si inizia a canticchiare, no, basta appoggiare una piccola scatoletta e già trovano il brano, l'autore, insomma, e quant'altro. Ma allora, detto ciò, cosa resterà se dovesse esserci un museo più avanti in proporzione come nello stesso tempo, no? Che è passato dai reperti in cui possiamo aver visione all'interno del museo di Adria, se ci sarà un museo che parte invece dal 2000 fino alla data che appunto ho determinato col termine in precedenza, cosa può restare della cultura appunto del silicio, del computer, dell'intelligenza artificiale. Yet clusters of tones nurture the heart, always only wanting a little bit of something, some fixing of the column, some saving of the lamb, a splinter from the cross and a healer at hand. In your head played a band, songs of earthly salvation, remedies, recreation, the pastime of a patient nation, sheet music for rainy days, that's the spirit, Sister Payne. L'articolo col quale volevo portare la conclusione, sempre ritornando sulla lettura del Corriere della Sera, intanto questo disco è l'ultimo per il progetto Static, così diamo una continuità anche con altri suoni. Freedom of Noise è il titolo del lavoro, non l'ho portato nella playlist in precedenza perché erano solo pubblicazioni della berlinese City Centre Office, questo è portato dalla Karaoke Kolk. E sfogliando la lettura prima dell'articolo col quale vorrei concludere, ho letto questo, ma solo il titolo chiaramente, perché non ho insomma sentito l'ispirazione di portarlo nella rassegna. Comunque è la tentazione del partner creato da un'app, il fronte delle regole. L'essere umano sta subendo una perdita di autonomia e di controllo, ma dai. Occorre intervenire a livello informativo e pedagogico, ma dai. Ma anche legislativo. Per quello è un po' tardi, ma si poteva fare. Però, insomma, si dice non è mai troppo tardi. Insomma, questo è un altro articolo all'interno dell'enorme possibilità di riflessione che ci dà la tirannia dell'ovvio, l'apertura della lettura del Corriere della Sera. Mi pare sia in edicola tutta la settimana, ve lo consiglio assolutamente. E pensate, l'idea di portare anche per la persona amata, per chi sta cercando anche una app che dà il consiglio e che magari ti dà un elenco, ecco, di possibilità per, e magari se vogliamo anche un'imposizione. È un matrimonio programmato, no? Stiamo a scandalizzarci per questa realtà che chiaramente è retrograda, no? È un matrimonio combinato, ecco, si dice matrimonio combinato. Ecco, pensate un po' se allo stesso modo quello dell'intelligenza artificiale con il partner creato dall'app non vi dà l'idea del matrimonio combinato allo stesso modo. Concetti diversi, è ovvio, ma contenuti identici. Invece per me, per il tempo libero, è molto bello, ce ne fosse di tempo libero, che poi è un tempo libero educativo secondo me. Io amo la geografia poi, ed è un bel modo di giocare con la geografia, e nello stesso tempo ci dà la nozione. Perché è stata persa l'idea di nozione? Perché tanto è la rete che ha le nozioni, è l'intelligenza artificiale che ha le nozioni. Alexa, dimmi qual è. We can buy a silent scream, a raging wind and clouds of steam. It was darker than a shadow. Lui è Terry Callier, eh? Grandissimo. The heavy air and boiling seas, destruction of societies. It was darker than a shadow. What type of insanity is this? Standing on a precipice, leads into a deeper. Allora, giocando con questo visual data che ho trovato quanto facile, quanto molto interessante, perché ho avuto delle sorprese, insomma, anche se i primi due li conoscevo ovviamente, sono i comuni italiani più estesi. Ad esempio, quando dico, beh, Ravenna è il secondo comune più grande d'Italia, se Ravenna! E Ravenna ha un'estensione che va, pensate, fino a dopo Milano Marittima, dopo Cervi, fino a Tagliata, e fino a Tagliata, cioè vuol dire fino al confine con la provincia di Forlì e Cesena, e a nord arriva fino al Ferrarese, divisa solo dal fiume Reno con la località marittima di Casal Borsetti. Pensate quantità di estensione di costa, e anche nell'entroterra arriva veramente in maniera molto importante, come se fosse un cono, fino a sfiorare con caso l'aspetto collinare appenninico. Ravenna è enorme come estensione comunale. Poi, a sorpresa, troviamo al terzo posto, e chi l'avrebbe mai detto, Cerignola. Cerignola è il comune medaglia di bronzo come estensione. Ovviamente il primo è Roma, Ravenna, e il terzo è Cerignola. Beh, a Cerignola diamo un primato però importante, è l'unico che non è provincia di Roma, provincia di Ravenna, non puoi dire provincia di Cerignola, perché è un comune inserito nella provincia di Foggia. Chi se ne frega di tutto ciò? Beh, invece per me sono cose, ad esempio da ragazzo, queste cose qui per me erano, beh, stavo a leggerle delle ore sull'Atlante, sulle pubblicazioni anche didattiche, accademiche, che consigliavano per quanto riguarda le curiosità in ambito di geografia. Ora, boh. There came a flaming asteroid. One third of this world was destroyed. It was darker than a shadow. Non compare Bologna, ad esempio, qui ne hanno portati, adesso non riesco a contarli, però ve ne fai finta una cinquantina, ecco. vi posso dire che ad esempio Brindisi è più estesa di Bologna, vi posso dire che Caltanissetta è una tra le più estese, anche se in Sicilia il primato, da quello che vedo, appartiene a Noto, la città del barocco, posto meraviglioso, che la stessa Noto è un comune, sì, ma non è provincia, in quanto è in provincia di Siracusa. Bene, vi siete fatti un'idea geografica di estensione comunale. Ho voluto concludere così i nostri atipici magazine di oggi. Vi lascio con un po' di musica e poi do appuntamento a domani con un altrettanto tipico atipico Move to Groove. Torneremo un po' alle origini, facendo anche un po' di storia del format rubrica di Breakfast Club, probabilmente quello esistente da più tempo. E poi valuteremo anche insieme quali saranno i progetti futuri del Move to Groove. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, per aver fatto colazione con Radio Città Fujiko. Tra pochissimo ci sarà la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, anticipata da Liberi Dentro. L'appuntamento è a domani, il Move to Groove nell'imprevedibile di Radio Città Fujiko. Ma per adesso vi auguro un buonissimo lunedì, un buonissimo inizio di settimana sulle frequenze dei 103.1. A domani con un altro Breakfast Club. Un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutti, ciao a tutti.